puntualissima la curatrice dell'esposizione Pietro Pietra 1885-1956, La forza del segno, che già abbiamo presentato, però i motivi di incontro sono diversi, tra cui questa sera alle ore 17 sarà con l'Associazione Bologna per le Arti, che ne ha l'organizzazione, a Palazzo da Curzio. Con noi Daria Ortolani qua al telefono, a cui do il buongiorno e benvenuta. Buongiorno Daria. Grazie, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Sì, rinnovo anch'io appunto l'invito a, insomma, a venire in Palazzo da Curzio stasera presso la Cappella Farnese. Partiremo quest'anno, anche quest'anno, con i dialoghi culturali di Palazzo da Curzio, che ogni anno comunque è un appuntamento, insomma, consueto dell'associazione in relazione alla mostra quest'anno su Pietro Pietra. Questa sera interverremo sia io che il presidente dell'associazione, Gian Arturo Borsari, e vorrei essere appunto un dialogo proprio introduttivo che ripercorrerà un pochino il percorso, ecco, e l'attività produttiva di questo artista, di questo incisore e acquarellista Pietro Pietra. E ci accompagneremo poi con altri due dialoghi che seguiranno nelle settimane successive, sempre di gennaio, nello specifico il 22 di gennaio e il 29, sempre alle ore 17 e sempre in Cappella Farnese. Siamo nell'epoca, perché la rubrica In Mostra giovedì è dedicato all'arte, al Breakfast Club, un po' più tardi, però più o meno siamo, perché ho presentato una mostra a Bassano del Grappa del grande Giovanni Segantini, altro aspetto completamente diverso, ma grandissimo talento, insomma, padre del divisionismo, insieme a Pelizza da Volpedo. È l'unico momento in cui mi ha riportato l'attenzione a questo aspetto un po' contemporaneo tra i due, un po' dopo Pietro Pietra 1885. Segantini arriva subito dopo la metà invece dell'Ottocento. Beh, bando a questo aspetto cronologico che poco importa perché è solamente una coincidenza. Invece, per i dialoghi culturali a Palazzo da Curzio, qualche anticipazione e particolarità. Perché Pietro Pietra, che già ha questo nome che subito mi ha acchiappato come curiosità, poi incisore, acquarellista, per la nostra città un grande legame, e grazie all'Associazione Bologna per le Arti che dà l'evidenza a questi artisti, io ho il catalogo, io mi sono completamente fatto rapire da questa ispirazione. Com'è che merita il podio, indubbiamente, che stiamo assegnando a questo artista? Però, insomma, non ha mai avuto quel riflettore così importante, o è una mia impressione, dottoressa? No, decisamente, dice molto bene. In effetti non ha goduto, ecco, perlomeno nel momento e al tempo in cui viveva, non ha goduto di un'enorme fortuna critica. Sempre un artista, è sempre stato un artista un po' rimasto fuori, ecco, dai riflettori. In realtà negli anni 20 del Novecento lui è stato riconosciuto nella sua maestria incisoria, ma negli Stati Uniti d'America, quindi alcune sue incisioni furono chiamate, insomma, delle esposizioni internazionali di incisione, sia a New York che a Los Angeles, proprio nel corso di varie edizioni di queste mostre degli anni 20. La sua bravura è stata riconosciuta, ecco, in Italia e nella fattispecie a Bologna a partire più o meno dalla fine degli anni 70, grazie a due gallerie come quella del Caminetto e la Galleria D'Azeglio, che appunto hanno cominciato proprio in quegli anni ad organizzare alcune retrospettive monografiche dedicate all'artista, ecco. Anche qui, per quanto riguarda l'aspetto di vicinanza con la natura, oltre che per la nostra città, lui, mi corregga se sbaglio, grande fascinazione anche per il mondo animale. Sì, sì, decisamente, anzi direi che, ecco, l'interesse rivolto al mondo animale è forse la sua firma, ecco, più riconoscibile. C'è una sterminata serie di acqueforti dedicate a questo mondo che lui è riuscito, ecco, a riprendere con una certa naturalezza, con un dato realistico, ecco, molto forte, ma anche in qualche modo esulando l'animale, ecco, dall'essere un mero, certo, accessorio decorativo, e riportandolo, ecco, a quella che è poi la sua vita, alla sua realtà, in maniera rispettosa, ecco. Sì, c'è questo leone, re della foresta, riposo, che è veramente maestoso, è bellissimo, è un capolavoro assoluto. A me ha colpito tantissimo questo artista, è onore al merito a chi ne dà l'attenzione, perché il panorama è veramente esteso. compreso, e riuscire a cogliere veramente tutti gli aspetti è qualcosa che aumenta ancora di più il valore di questo personaggio e di questa figura. Grazie all'Associazione Bologna per le Arti, è questa sera alle ore 17 in Cappella Farnese a Palazzo da Curzio. L'ingresso è gratuito, però mi permetto di aggiungere una cosa: il catalogo è meraviglioso, sarà a disposizione? Penso di sì. Il catalogo è veramente bellissimo, dottoressa. Benissimo, decisamente sì, sarà a disposizione. Ok, perché lo vorrei consigliare alle appassionate e agli appassionati, ed è grazie. Un capolavoro nel capolavoro, diciamo così. La bellezza di avere anche qualcosa che poi rimanga, che certamente è concreto, come rimane del resto l'arte, come rimane il lavoro e i percorsi di questo artista dal nome molto particolare, Pietro Pietra, anche questo ed è incisore, oltretutto inciso nella pietra. È un nome nomen. Esattamente, è un nome nomen. Io la ringrazio tantissimo. Grazie a lei. Per quanto riguarda questo last minute nell'arte, e magari andremo a sottolineare anche gli altri appuntamenti per questi dialoghi culturali a Palazzo da Curzio. Le auguro intanto una buonissima giornata e a presto. Grazie, altrettanto, a presto.